La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi. 31 primi tra un secondo, in diretta qui dagli studi di Milano della 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, nonché il numero di telefono per intervenire, 800 24 0024, per gli sms lo sapete 349 238 6666. Di cosa parliamo oggi? Tentiamo di capire chi ha ragione e chi ha torto in una questione sollevata di fronte alla Corte Costituzionale. A sollevarla è il Consiglio Superiore della Magistratura, lo sapete, l'organo di autogoverno della magistratura nel nostro paese, e che presiede poi a carriere, nomine, incarichi, eccetera, eccetera, a maggioranza togata, perché dei 24 membri attivi due terzi sono espressi dai magistrati, un terzo dal Parlamento, poi ci sono tre membri di nomina del capo dello Stato. E il Consiglio Superiore della Magistratura ha elevato conflitto di fronte alla Corte Costituzionale contro la Corte dei Conti. Perché? Perché sostiene che la Corte dei Conti, e in particolare la pretesa esercitata dalla sezione del Lazio, la Corte dei Conti, di sottoporre a controllo successivo di rendicontazione del bilancio del Consiglio Superiore della Magistratura sia appunto incostituzionale. Non deve essere sottoposto al controllo di verifica contabile della Corte dei Conti il bilancio del, anzi il rendiconto del, di spesa del CSM, perché il CSM sostiene di essere un organo costituzionale tra quelli ammessi all'esenzione di questo regime di controlli. La Corte dei Conti invece la pensa diversamente. Come giustifica il Consiglio Superiore della Magistratura questa iniziativa di fronte alla Corte dei Conti? Naturalmente ne fa una questione di rispetto dell'autonomia della magistratura e dell'autonoma gestione delle spese che, secondo la stessa legge istitutiva del CSM, è attribuito all'articolo 9 dal CSM stesso. E dice CSM: noi abbiamo un collegio di revisori composto da due giudici contabili, tra cui il presidente della Corte dei Conti, in cui è scienza, è un docente universitario. Il CSM trasmette regolarmente ogni anno il rendiconto di gestione alla Corte dei Conti. E però cos'è questa storia di volerci fare il controllo ex post di rendicontazione voce per voce, come avviene per le amministrazioni dello Stato e per le società finanziate dallo Stato da parte della Corte dei Conti? La Corte dei Conti, dice il CSM, ha assunto un'iniziativa estemporanea, che quindi come tale è censurabile e anzi da respingere. Allora, questo è il succo della questione. Questa questione ha da una parte da chiarire un punto formale, cioè è il CSM un organo costituzionale? Vedremo che non è affatto detto che sia così, ma ce lo faremo spiegare da esperti, abbiamo due ospiti. Dall'altra c'è una questione non formale ma di sostanza, per così dire. Perché io sono già tra coloro che ritengono che la sottrazione degli organi costituzionali, più alti organi costituzionali, cominciando dal Quirinale e così via, al controllo di rendicontazione successiva delle spese da parte delle Corte dei Conti sia una cosa oramai ingiustificabile. Ingiustificabile, cioè poteva essere giustificata decenni fa dal rischio, dalla paura di che ricadessimo in regimi nei quali il pluralismo, cioè, non fosse rispettato e così via. Attualmente mi sembra, devo dirvi la verità, un cascame, un'eredità incomprensibile di tempi totalmente tramontati da decenni, per non dire da secoli. Io non riesco a concepire in base a quale principio in realtà pezzi dell'amministrazione pubblica, per quanto elevato sia il loro livello costituzionale, debbano essere sottratti ai regimi dei controlli a cui è sottoposto il resto dell'amministrazione pubblica, visto che già quelli funzionano poco, come sappiamo. Tantomeno concepisco la cosiddetta autodichia che tante volte abbiamo criticato a proposito del Parlamento, che si stabilisce i suoi trattamenti di pensione e così via, i vitalizi, tutte le famose questioni. Adesso si aggiunge anche questa questione del CSM. Come vedremo, in realtà l'individuazione degli organi costituzionali che sono sottratti a questo regime dipende da una sentenza della Corte Costituzionale che risale decenni fa al 1981. Ma concludo questa mia breve introduzione con due osservazioni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che un organo come il CSM, composto a maggioranza da togati, non volesse dare per primo il buon esempio, per così dire, al di là del formalismo della legge, di questo ci occupiamo subito, non volesse dare il primo il buon esempio in un paese che ha così poca trasparenza, che scassa i conti. Ma come, un organo a maggioranza togata dice no, noi non dobbiamo essere sottoposti al regime di controllo di rendicontazione successiva da parte dei Corte dei Conti? Per me è una amara delusione, io non voglio giudicare nessuno, è una amara delusione. In più, oggi i giornali, perché questa questione è esplosa sui giornali in questi giorni, molti giornali ne hanno parlato, siamo in presenza di una previsione di bilancio per il 2016 che passa da 39.543.000 euro spesi nel 2015 a 69.450.000 nel 2016, perché c'è di mezzo una nuova sede in cui trasferirsi, l'ex sede del CNEL, ma sta di fatto che aumenti di queste proporzioni, quasi del 70%, tutto lasciano credere, tranne che non ci sia bisogno anche di un controllo ben preciso. La rendicontazione attuale annuale, quella che viene effettuata dal CSM, viene pubblicata regolarmente in Gazzetta Ufficiale. Io vi invito ad andare a vedere, sono quattro paginette assolutamente scheletriche rispetto alle quali chiunque di voi in realtà non è in grado di esercitare nessun approfondimento per come vengono presentate al lettore. Allora, abbiamo appunto un audio per capire ancora meglio, visto che è assente la rappresentanza diretta della Corte dei Conti e anche dello stesso CSM, qual è la ragione sollevata dalla Corte dei Conti nel dire al CSM no ragazzi, voi non siete sottratti al nostro regime di controllo. Abbiamo un audio di Ivan De Mussi che parla appunto a effetto giorno di Radio 24, sentiamolo. Diciamo che il CSM è dal 1997, non presenta più i conti. Noi non abbiamo accesso perché recentemente noi abbiamo mandato una lettera circolare a tutti gli enti di maggiore rilevanza istituzionale, dalle regioni alla Roma Capitale, alle authority, alle ASL, ecco, per dire tutti i soggetti pubblici che maneggiano in qualche modo risorse pubbliche e di cui noi abbiamo il compito e il dovere di controllarne l'utilizzo. Il CSM, con una molto garbata lettera del suo segretario generale a nome del CSM, ci ha informato che in base all'autonomia, alla rilevanza costituzionale del ruolo che occupa, non dovrebbe essere soggetto a questa rendicontazione. Il CSM in sostanza si equipara agli organi sovrani, supremi, quali sono il Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la stessa Corte Costituzionale, che proprio una pronuncia della Corte Costituzionale ha definito tali e non soggetti, soltanto loro non soggetti. E noi ci siamo attenuti a queste, sì, a queste prescrizioni, a questa giurisprudenza, non vogliamo invadere assolutamente quelle che sono le competenze, altissime competenze di governo delle magistrature del CSM. Però nell'ambito del CSM ci sono degli agenti contabili previsti proprio dallo stesso regolamento interno di contabilità di amministrazione, quali sono l'economo, l'istituto istituto di credito cassiere e il consegnatario di beni, che dovrebbero presentare i conti, sì, ma non a noi, prima ancora proprio al CSM. Il regolamento interno del CSM ha previsto un organo composto da un organo interno di controllo interno composto da alte professionalità, per cui questi conti vengono comunque verificati. Però sì, il CSM non vuole che questi conti vengano verificati anche dalla Corte dei Conti. Il CSM, io credo che non abbia nulla da nascondere. Il ricorso sta nel sistema giudiziario italiano, quindi anche noi siamo contenti che alla fine la Corte Costituzionale dirima questo contrasto fra Corte dei Conti e CSM. Allora, a parlare era Ivan De Musso, giudice della Corte dei Conti, anzi presidente della sezione contabile del Lazio, e sentivate che ad assentire era il nostro Simone Spezia di Radio 24, la sua trasmissione Effetto Giorno. Allora, sentiamo i nostri, innanzitutto presentiamo i nostri due ospiti. Abbiamo con noi, per capire la questione dal punto di vista formale, e cioè vale la sentenza della Corte Costituzionale dell'81, secondo la quale il CSM invece non è contemplato dagli organi che sono esclusi dal controllo da parte della Corte dei Conti, oppure ha ragione il CSM? Ecco, primo ospite, docente di diritto pubblico comparato all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e il professor Tommaso Frosini. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. E poi un collega e un amico, il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, che ha scritto in questi giorni esattamente su queste cose. Buon pomeriggio e grazie, Maurizio. Ciao Oscar e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, professor Frosini, ci aiuta a capire la fondatezza di questo conflitto di attribuzione sollevato alla Corte Costituzionale da parte del CSM? Sì, dunque, io credo che lei abbia colto esattamente il punto laddove ha individuato, diciamo, un criterio formale e uno sostanziale. Il criterio formale: il CSM è un organo costituzionale? Direi senz'altro di no. È un organo di rilievo costituzionale forte, ma non basta essere citati in Costituzione per diventare organo di rilievo costituzionale, altrimenti anche Roma Capitale, anche il CNEL, che sta per essere abolito dalla riforma costituzionale, sarebbe un organo di rilievo costituzionale. Secondo me il CSM è, come disse una volta con una fulminante definizione Cossiga, un organo di alta, anzi di altissima amministrazione. E allora, se così stanno le cose, deve essere senz'altro soggetto alla rendicontazione da parte della Corte dei Conti, perché se uno legge la Costituzione, legge all'articolo 105 quali sono le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Sono competenze di altissima amministrazione, cioè spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Poi uno torna indietro, va all'articolo 100 e legge quali sono le competenze della Corte dei Conti: quello di partecipare al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. E allora, se mette insieme le due cose, credo che trova la soluzione al caso, cioè il CSM non può vantare una sua collocazione istituzionale pari a quella di Presidenza della Repubblica, Parlamento e Corte Costituzionale. Perché tale non è un organo supremo dello Stato, non è un organo costituzionale. L'organo costituzionale in realtà è la magistratura, secondo quello che c'è scritto in Costituzione, non il CSM. Certo, il CSM peraltro non è una magistratura, certo. Rappresenta la magistratura e la rappresenta in, diciamo, coabitazione con una componente laica, certo, oltre che togata, che magistrati non sono, perché sono quelli che vengono eletti dal Parlamento a comporre una minoranza, ma seppur significativa, dell'organo del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi direi che il CSM non può vantare una posizione istituzionale pari a quella di Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale e Parlamento, e pertanto non può dichiararsi escluso dal controllo della Corte dei Conti sulla base appunto di quella sentenza da lei ricordata e dalla legge che esclude questi organi costituzionali dal controllo della Corte dei Conti. Il problema invece sostanziale è che naturalmente in questo caso il CSM dovrebbe consentire ad essere controllato dalla Corte dei Conti nella parte relativa alla rendicontazione delle spese pubbliche, perché è, rientra nella logica dei checks and balances, certo. la Corte dei Conti fa questa attività di controllo e la fa controllo da parte di tutti i soggetti pubblici, fatta eccezione, come eccezione alla regola, a quei tre organi che abbiamo detto prima. Cioè, che il CSM lamenti una lesione della separazione dei poteri è l'opposto, è proprio il principio del pouvoir arrêt le pouvoir, del controllo di un potere su un altro potere, che in questo caso prevale. Cioè la Corte dei Conti esercita la sua funzione costituzionale di controllore sulla spesa pubblica di tutti quei soggetti che ricevono una contribuzione finanziaria pubblica statale, fra cui il CSM. bene ha fatto il CSM a ricorrere alla Corte Costituzionale, perché mi auguro che la Corte con sentenza possa dire definitivamente una parola sulla collocazione istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Auguriamocelo, io spero anche, vabbè, è ovvio che agli occhi della Corte Costituzionale, la decisione della Corte Costituzionale non devono pesare che argomenti formali. Io da cittadino poi ci aggiungo il mio stupore, perché in un organo a maggioranza di magistrati dire noi non ci sottoponiamo ai controlli, francamente non lo so, istintivamente rimango deluso. Però anche l'argomento formale, come avete sentito dal professor Frosini, è del tutto discutibile. Anzi, ci sono argomenti che sembrano militare a favore della giustezza della richiesta della Corte dei Conti, non della pretesa avanzata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, abbiamo un minuto di pausa e poi sentiamo come la pensa invece il vice direttore di Panorama. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. La questione di cui ci occupiamo oggi è: ma ha ragione il Consiglio Superiore della Magistratura che apre un conflitto, eleva il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale contro la Corte dei Conti, perché dice non devo essere sottoposto al regime di controllo, di rendicontazione delle mie spese da parte della Corte dei Conti, o ha ragione la Corte dei Conti invece appartendendolo dicendo no, guardate che nella lista degli organi costituzionali che sono esentati, cioè Quirinale, Parlamento e Corte Costituzionale, voi non ci siete, lo avete fatto fino alla fine degli anni 90 e non si capisce perché adesso vi sottraiate, e loro dicono noi siamo organo costituzionale. Abbiamo visto che formalmente non sembra proprio che sia così, non sono un organo costituzionale, sono un organo di alta amministrazione, e tentiamo di capire adesso quindi anche qual è il motivo che spinge il CSM a questa contestazione. Prima io devo una precisazione, perché giorni fa in trasmissione abbiamo citato da parte di un ascoltatore ha attirato la nostra attenzione sul fatto, ho scoperto che i figli di dipendenti statali, se i dipendenti statali fanno domanda entro il 31 di marzo, possono avere 2 settimane di soggiorno studio all'estero pagato dall'INPS. Naturalmente non tutti quelli che fanno domanda, ma le domande vengono esaminate. Io non lo sapevo, ho detto è una cosa buona e giusta, e soprattutto chi paga. In trasmissione un sindacalista ci chiamò dicendo guardate che questa roba se la pagano i dipendenti pubblici. Io siamo rimasti col punto interrogativo aperto, e allora l'ufficio stampa dell'INPS ci ha mandato una nota e dice: il programma Estate Insieme non è finanziato con i contributi versati dai contribuenti privati, ma esclusivamente con i contributi dei dipendenti pubblici, che versano ogni mese, oltre ai contributi previdenziali, lo 0,35% della retribuzione al fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e a questo fondo possono iscriversi anche i pensionati già dipendenti pubblici, e a quel punto versano lo 0,15 della pensione. E poi dice: in sostanza dipendenti e pensionati pubblici si autofinanziano la prestazione. E l'indicazione di questo tipo di prestazione è individuata per legge. E poi prosegue la nota dicendo che ovviamente vengono individuati gli studenti più meritevoli e quelli appartenenti a nuclei familiari con redditi più bassi, si guarda l'ISEE, per quelli che hanno l'ISEE non proprio minimo si chiede anche un contributo. Ne do atto, ma questa in sostanza che c'è scritto nella nota dell'INPS, in sostanza dipendenti e pensionati pubblici si autofinanziano la prestazione, mi lascia perplesso. Cioè c'è scritto che non è che se la finanziano integralmente, c'è scritto in sostanza. Siccome conosco abbastanza il bilancio dell'INPS per sapere che si travasano i fondi al suo interno, questo in sostanza non mi soddisfa. Quindi io vorrei ancora una volta, e lo preciso, sapere se è integralmente coperto, e anzi se si può avere una rendicontazione precisa dei contributi incassati a fronte di quanto viene speso per tutto questo. Noi ringraziamo, perché lo diciamo ai nostri ascoltatori. In sostanza non è una precisazione che ci faccia passare tutti i dubbi. Allora, il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, tu cosa pensi della questione formale e soprattutto della sostanza di un CSM che dice noi non ci vogliamo sottoporre a questo regime di controllo, di rendicontazione da parte della Corte dei Conti? Ma Oscar, io non sono un costituzionista, soprattutto non sono un grande costituzionista come il professor Frosini. I miei esami di diritto pubblico risalgono a qualche anno fa. Io ricordavo che il Consiglio Superiore della Magistratura fosse un organo al massimo di rilevanza costituzionale. Sono andato a vedermi e a leggermi la sentenza del 1981 che loro richiamano per opporsi alla richiesta della Corte dei Conti, e lì si parla di organi supremi dello Stato e quindi si parla di Parlamento, Presidenza della Repubblica. E cioè, questo pensano di essere. E, Quello che a me stupisce di questa vicenda sono più cose in realtà. Allora, la prima, se vogliamo, ed è marginale, che il Consiglio Superiore della Magistratura non dà i suoi conti alla Corte dei Conti, scusa il bisticcio, non da ieri, ma dal 1997. Già. Quindi effettivamente anche da questo punto di vista la Corte dei Conti in qualche maniera è inadempiente, perché se ne accorge 19 anni dopo, 7.000 giorni dopo, cioè sono cose anche queste abbastanza scuole. È lo Stato italiano. Vabbè, sì. Tiriamo il classico velo pietoso. E vabbè, andiamo quindi ad analizzare la questione. I circa 35 milioni di euro di cui il CSM fa il suo bilancio annuale, mediamente da un anno all'altro vanno dai 34 ai 35. Quest'anno però diventano quasi non lo so francamente, perché sono andato a scaricarmi tutti i dati possibili e immaginabili. L'esercizio 2016 prevede anche per quest'anno 34 milioni e 4 di spesa. Non so francamente, poi devo dire, non sono neanche un buon lettore di bilanci, un disastro se vuoi, ma insomma non mi pare che arriverà a 69 milioni, ma studierò meglio e mi preparerò meglio. Comunque questa è la mia netta impressione, se vai a guardarti i dati, tu che ci capisci meglio, queste cose sicuramente tenere in conto. Comunque indipendentemente da questo, c'è un punto di fatto. In un periodo di presunta spending review, di tagli alla spesa pubblica, di tagli lineari, di riduzioni di spesa, disperate, tentate, cercate in tutti i gangli dell'amministrazione pubblica, che il Consiglio Superiore della Magistratura si impanchi ad organo supremo dello Stato per questo e per questo assolto da qualunque obbligo, francamente non solo fa ridere, ma fa piangere. È una vergogna palese, patente, non ci si può comportare in questa maniera. Quindi fatevi analizzare i vostri conti dalla Corte dei Conti, come lo fanno tutti, e francamente smettiamola. Mi pare francamente un comportamento incomprensibile, scorretto e al limite dell'insubordinato. Devo dire che adesso se ne occuperà la Corte Costituzionale e va bene. Non è un bel sperare, francamente, perché la stessa Corte Costituzionale ha analizzato più volte vicende in qualche maniera relative alla magistratura. Già. E anche recentemente ha escluso i soli magistrati, per esempio, dalla famosa questione che ha riguardato invece tutti i dipendenti pubblici. Dell'adeguamento delle retribuzioni al costo del E la motivazione fu che ne andava di mezzo la serenità e quindi la possibilità di pregiudicare l'equilibrio nell'assolvimento della funzione giurisdizionale, come se non valesse per i pompieri, i poliziotti, i carabinieri, per chiunque altro. C'è una roba veramente, devo dire, anche di dare a brividire. Ringrazio i nostri due ospiti. Nel frattempo, per gli elettori e gli ascoltatori romani, una novità, perché nella confusione del centrodestra c'è uscito un comunicato che dice che l'ufficio di presidenza dei Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale si è detto favorevole alla candidatura di Giorgia Meloni, ma che però solo domani comunicherà cosa ha deciso. Sentiti gli alleati del centrodestra. Mio Dio, che caos l'Italia. Vabbè, che vergogna però sta richiesta CSM. Continuate su Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milano. Attenti a noi due.